Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, grazie veramente di essere venute qui tante per Natasha Cecutti, la nostra autrice che viene da Parigi, che è molto felice di essere qua in mezzo a noi, ama moltissimo sia Roma, ma in particolare ha avuto delle ottime impressioni di quelle che sono le relazioni sia politiche che amicali, sia dei gruppi che delle singole qui a Roma. E Natasha è una sociologa, ha fatto un dottorato in antropologia sociale qualche anno fa, da cui poi è partita una ricerca su un campione molto vasto di donne lesbiche ma anche eterosessuali, che poi si è sviluppato in questa pubblicazione che è Se dire lesbien. Questa è la prima edizione che è uscita in Francia nel 2010 per Peyo, che è un editore equivalente al nostro Mulino, cioè un editore di saggistica di qualità. Ha avuto vari incarichi di insegnamento in molte delle università francesi. In questo momento lei credo che abbia in qualche modo scelto di fare una libera ricerca piuttosto che entrare in meccanismi a volte frustranti dell'accademia, perché certamente una ricerca come quella che lei ha fatto in Francia come in Italia proprio sul lesbismo non è una ricerca che immediatamente paga, no? In termini di cattedre e di riconoscimenti accademici. Però lei imperterrita ha continuato appunto a lavorare e con grande successo anche editoriale, perché poi nel 2013 la sua ricerca Se dire lesbien è uscita in un'edizione ancora francese tascabile, quindi questo vuol dire che il libro è molto venduto e che circola e che piace molto. Noi, che interessa molto anche perché è un po' una ricerca unica nel suo genere per chi l'ha letto e per chi le leggerà, no? Apparentemente sembra, in fondo uno ci si ritrova talmente tanto, almeno parlo per me, che ti sembra quasi naturale, no? Rientri in questi incontri, queste narrazioni che lei riporta di queste donne lesbiche, sia singole che nella coppia. Io mi sono riconosciuta in pieno, e tanto che ti sembra di stare nella tua dimensione di relazioni politiche, però poi c'è la sottile capacità di Natasha, che io trovo molto lucida nel suo lavoro, di individuare sia alcuni parametri che ci aiutano a vedere un percorso di visibilità, di trasformazione anche nelle relazioni lesbiche, che sicuramente sulle quali abbiamo lavorato molto anche noi, ma probabilmente non con questo approccio sociologico. Naturalmente lei è sociologa, ma è anche una lesbica impegnata politicamente, quindi anche questo fa la particolarità del libro. Nel libro, il libro naturalmente arriva fino ai PAX, ma non riporta i cambiamenti che ci sono stati con l'approvazione del matrimonio omosessuale nel 2013. D'altra parte anche Natasha, a cui chiedevo delle informazioni su questo, ci dice che è ancora troppo presto per poter verificare che cambiamenti ci sono stati nelle relazioni lesbiche a seguito dell'approvazione del matrimonio. E invece quello dove lei ha cominciato a lavorare, cioè la risposta puntuale che Natasha dà e la ricerca di questo momento che l'appassiona, è l'attacco integralista delle forze cattoliche che si sono scatenate in Francia, come dice lei, inventando la teoria du genre, e cioè una forma di ideologia che in realtà lei dice è un'invenzione dei suoi detrattori, in particolare del Vaticano, che immagina una ideologia che manipola nelle scuole le studentesse e gli studenti sin da piccolissimi, sin dalle prime classi. E il lavoro che lei sta facendo in questo momento in particolare è questo, quindi ho visto moltissimi articoli che tu hai scritto, perché poi collabora moltissime riviste, cioè è molto attiva. E noi ci siamo incontrate a un festival di cinema lesbico a Parigi. Dico questo solo per ringraziare tutte voi, le amiche con quale compagne, di questa nostra entusiasmo e caparbietà con cui teniamo i luoghi delle donne, perché continuano a essere dei luoghi dove nascono le relazioni, dove scaturiscono incontri che poi portano anche a produzioni come questo libro. E quindi nel 2010-2011 ci siamo incontrati, poi c'è stato questo lungo lavoro di rielaborazione del testo, c'è stata la necessità di immaginare un'introduzione, in questo caso di Sara Garbagnoli, che è una ricercatrice che vive a Parigi, lavora all'Istituto Culturale Italiano, ma anche lei è una lesbica militante, e ha nella sua introduzione cercato anche dei punti di raccordo tra quella che è la realtà francese e la realtà italiana. Quindi qui abbiamo a parlare con Natascia Lucilla Ciambotti del Coordinamento Lesbiche Romane, CLR, Elena Biagini, che ci ha intervistato per la radio nel martedì autogestito da Lesbiche Femministe sull'onda di Radio Onda Rossa, sulle onde di Radio Onda Rossa. Io mi fermo qua e poi magari se mi viene in mente qualcos'altro, però intanto ci terrei che loro parlassero, interloquissero con Natascia. Ciao a tutte, ho poca voce, se a un certo punto sparisce del tutto passerò la parola. E, innanzitutto vabbè, grazie a Stefania e a Natascia per l'invito per parlare appunto di questo libro che è molto interessante e poi se vogliamo appunto anche degli ultimi lavori di Natascia, perché effettivamente questo suo impegno insomma, intellettuale rispetto a Manifortù e a questa revanche dell'integralismo cattolico in Francia è molto interessante anche per noi, perché purtroppo siamo importati insomma con il fenomeno delle sentinelle in piedi, addirittura l'associazione di Manifortù che si chiama così anche in Italia, riprendendo il nome da quella francese, e questa teoria del gender ormai ce la troviamo tra i piedi spesso, soprattutto per chi insomma, ha a che fare con l'educazione, la scuola, eccetera. Però questo magari ci arriviamo dopo. Intanto due parole su questo libro, poi diamo subito la parola a Natascia. È appunto un saggio di sociologia, come già è stato detto, che ha il grandissimo pregio, almeno per il mercato librario italiano, di essere molto diretto sull'argomento, nel senso di intitolarsi di lesbica, perché è molto raro, almeno da noi, non so in Francia, insomma, avere e definire l'argomento del lesbismo senza diciamo di parole. È un libro che tratta, c'è una suddivisione dei capitoli, insomma se vedete l'indice vedrete che tratta temi, come dire, passatemi la parola, classici del confronto tra lesbiche e lo affronta attraverso appunto una ricerca sociologica sul campo che poi lasceremo descrivere a lei, temi che appunto sono i luoghi e le modalità di incontro, come si diventa lesbiche, come ci si rappresenta come lesbiche nella norma, fuori dalla norma, quanto è rilevante questa norma, l'autodefinizione di sé, anche rispetto alle parole per esempio, omosessuale, homo, dicono in Francia, noi insomma non siamo insomma lesbica o in altri modi. Tra l'altro a me mi ha colpito, così dico semplicemente una cosa aneddotica, trovare scritto in un libro di una francese, che quindi si tratta di un libro che è stato scritto in un'altra lingua prima di essere tradotto, che ci sono alcune che dicono che la parola lesbica mi suona male, Ora, la parola lesbica in Francia è lesbienne, non è lesbica, siccome la stessa cosa si sente dire anche in Italia, allora forse non è un problema di cacofonia, viene da pensare, no? Se il suono è completamente diverso. E si parla poi di, non so, il termine omosessuale che non si usa, che va scomparendo, ma che si usa rispetto alle istituzioni, ma tutto questo lo vedremo. E si passa poi a parlare anche insomma delle altre due tematiche che sono centrali in genere nel confronto tra lesbiche, che sono l'amore, il desiderio, le modalità della coppia da una parte, fino all'istituzione, fino al passo, perché appunto il libro in Francia è uscito nel 2010, il matrimonio in Francia è stato approvato nel 2013. Però non solo della coppia istituzionalizzata, ma anche proprio delle modalità di stare in coppia. E poi si parla moltissimo, c'è un capitolo molto lungo, molto articolato, sulla sessualità. Altro tema, come dire, molto dibattuto nelle cene tra lesbiche, molto meno nei dibattiti, diciamo, perché c'è sempre una qualche difficoltà poi, no? Nel costruire una riflessione articolata sulla sessualità, ma sicuramente c'è invece interesse. È un libro appunto in traduzione, se mi posso permettere, io ho trovato l'edizione italiana molto ben curata, credo che sia stato fatto un egregio lavoro da Natasha sul linguaggio, rendendo un linguaggio scientifico affordabile, fruibile da tutte. E un'ottima traduzione che rende facile la lettura, ma anche io ho trovato un buon lavoro sull'apparato critico, nel senso che nelle note troviamo aiuti forti per passare da un contesto culturale, politico all'altro, ben fatto, la biografia allo stesso modo, ci sono tutti, insomma, come dire, le traduzioni italiane, eccetera. Da questo punto di vista credo che valga la pena dirlo. È un libro che ci interroga molto da vicino, ovviamente, come lesbiche, non solo perché l'argomento è il lesbismo, ma anche perché Natasha è una lesbica politica che conosce e si relaziona con l'elaborazione del lesbismo politico radicale francese soprattutto. Quindi per noi è un'operazione particolarmente interessante, perché non è, come dire, l'occhio della scienza freddo e non neutro, perché di neutro non c'è niente, ma insomma che guarda dall'esterno, ma è uno sguardo interno che usa gli strumenti che i movimenti delle lesbiche e le riflessioni delle lesbiche hanno costruito negli anni, nei movimenti. In particolare, insomma, se lo leggete, sentirete Monique Wittig che suona in tante pagine, e insomma il filone del femminismo e del lesbismo materialista francese, dentro cui tra l'altro l'introduzione di Sara Carpagnoli riporta insomma il lavoro di Natasha. Quindi interrogandoci su questo da vicino, usando quelli che sono i nostri strumenti, ovviamente ciascuna di noi sarà sollecitata di più da un argomento o dall'altro. Io e Lucilla chiederemo a Natasha di parlarci delle cose che a noi sono sembrate più interessanti, ma ovviamente vi pregheremo presto di dire la vostra, insomma, perché è chiaramente un libro, insomma, che è interlocutorio, sì, in un ambiente come questo, insomma, sicuramente lo è. Quindi io adesso darei la parola a lei perché ci racconti soprattutto intanto la ricerca, quindi la metodologia, il campione, eccetera, poi cominciamo con le domande. Grazie veramente molto per le differenti letture. Mi scusa prima per il mio italiano, perché so che faccio molto molto sbagliati, ma infatti non ho parlato italiano da 20 anni e ripeto l'italiano adesso molto bene per le lezioni. Poi voglio ringraziare la Casa delle Donne e molto Stefania Volterini per il suo lavoro di editrice e con Nadia Pizzuti per il lavoro di Traduci, perché era veramente un lavoro stupendo. E anche Elena per le sue discussioni e le sue letture, ci siamo incontrati questa settimana, ma c'è veramente un dialogo teorico-politico tra noi. e Lucilla per la presenza anche del suo chiesa del coordinamento lesbica romano. Allora, e per precisare un punto, sulla mia ricerca attualmente lavoro precisamente sull'espressione dell'antisemitismo in quei movimenti adesso nazionalisti in Francia. Ma ritorniamo a questo punto, peut-être. Allora, per la prima questione, come ho fatto il mio terreno da cui sono parte. Ho cominciato a lavorare, Elena l'ha ben notato, le mie influenze teoriche addirittura erano prima monolitiche, e per me è la figura anche soggettiva, teorica, politica che mi costruisce, no? Come lettica anche. E l'inizio era due articoli fondamentali per me. Il primo, Non si nasce donna, per me questo articolo era molto importante, e fa 15 anni, quando era ancora giovane. E poi il secondo, La pensée straight, il pensiero... The straight mind, non è so. Straight mind. Mind. No, credo la disclosi, il pensiero non si può. Ecco, e un altro, ma è il corpo lettico, che era molto importante per me. E infatti volevo vedere la proposta teorica, politica di Monique Wittig, Non si nasce donne. In cui vuol dire che per Monique Wittig le lesbiche non sono donne, perché? Perché sono scappate dall'eterosessualità. Perché sono scappate? Perché sono fuori dalle classi uomo e donne, perché Monique Wittig era in un pensiero materialista, no? Dunque pensa ai rapporti donne-uomo come classe sociale. Dunque io volevo vedere veramente in un modo empirico. Come le lesbiche non sarà donne. Primo cominciato, non sono donne, sì. Primo ho cominciato a lavorare in 2003, ho cominciato questa ricerca e la ricerca si è fatta di 2003 a 2008, 5 anni di ricerca. Era lunga perché, e il mio dottorato infatti era lungo perché ho fatto interviste lunghe anche. Ho fatto intervista, infine ho guardato 40 interviste di 30-50 anni, dopo vado a rispettare perché 30-50 anni, ma io volevo vedere che cosa cambia nel cammino, il cammino di nominazione, il cammino della coppia, il cammino del rapporto alla società. Dunque ho visto le interviste molte volte, massimo 5 volte in 5 anni, dunque ho intervista di 20 ore di enregistrement, sì. Era molto lungo dopo per riscrivere. E perché 30 anni a 50 anni? Perché è una generazione particolare in Francia, è una generazione anche in Italia, che non si è costruita nel movimento femminista degli anni 70, dunque non ha conosciuto veramente i gruppi, differenti gruppi, tendenze politiche, non sono nate anche nel movimento degli anni 80 del movimento lesbiche, che veramente era molto forte, e infatti si è costruita dagli anni 90 agli anni 2000, all'inizio degli anni 2000. E questo periodo era molto differente, è un periodo dove si disputa molto la questione del Pax, dunque del contratto civile e vuol dire diritti, e vuol dire che nel movimento politico non è la posizione subversiva, non si definisce con pensiero di scappare dalla norma eterosessuale, ma scappare, ma al contrario vuol dire riprendere il discorso giuridico per entrare nella norma, o allora parate vuol dire entrare nella norma per la busculare, ribaltarla. Comunque era veramente questo periodo politico che è particolare, e poi è un momento politico più misto che negli anni 80 e 70. C'è in Francia il movimento queer e anche il movimento post-sida, dove c'è molto lesbiche nelle associazioni lesbiche. Dunque è per questa ragione che ho scelto questa età, 30-50 anni. E prima io non avevo pensato, però era già lesbica quando ho fatto la ricerca, ma non avevo pensato che la questione della definizione di sé, della nominazione, era tanti importanti nel percorso. Infatti ho voluto comparare percorsi eterosessuali e percorsi lesbiche. Sempre avevo in pensiero la formula dice le lesbiche non sono le donne. Dunque ho voluto fare questa comparazione con eterosessuali impegnate, femministe, e con lesbiche anche nei movimenti politici. E infatti prima, la prima questione, i primi elementi molto importanti negli interventi per le lesbiche è il cammino di dire lesbica o non, dirsi lesbica alla società, per sé, con la scuola, la religione, eccetera. Allora che evidentemente con le eterosessuali questo tema non parece. Dunque, primo ho molto lavorato sul cammino progressivo di dirci lesbica. Poi ho preso questa categoria nominale, infatti, come una categoria di pensiero la norma, per pensare la norma. Più che, mi sembra più interessante che la questione dell'eguaglianza. L'eguaglianza, ok, adesso in Francia abbiamo il matrimonio, eccetera, ma purtroppo, perché dopo ho fatto un'altra ricerca con Giovanni di 17 a 35 anni, l'ho fatto fa due anni, e ho visto che la questione della nominazione era ancora importante, molto importante, allora che le politiche di eguaglianza sono adesso presenti, non in Francia. Dunque la questione della categoria nominale veramente fa una differenza tra lesbiche e eterosessuali, e per questo si può pensare l'eterosessualità non come una semplice norma, ma veramente come un'istituzione, come un sistema sociale, come un sistema globale in cui ci sono le classi donne, uomini, eccetera. Ecco. Sole illuminami, con gli occhi suoi prendimi, falla restare qui, la sera che sarà così, bella come solo la tristezza sa, come la luna di Madrid, non so. Perché io ti dirò, dell'intimo mio sentirti, dell'attimo in cui confondi anche le nuvole di passaggio. Ti dirò, dell'intimo mio venire tra me. Ah. la sera che sarà così dolce come solo la sangria sa, come la luna di Madrid. Saremmo veramente perse. Allora, a me sembra che temi che affronta Natasha nella sua ricerca e quindi in questo libro, considerate che è stato pubblicato nel 2010, quindi sono già passati 5 anni, leggendolo l'ho continuato a trovare estremamente attuale. Cioè, nel senso, sono passati 5 anni, naturalmente questo campione adesso di cui le ha parlato ha 35-55 anni, però resta il fatto che le questioni che lei ha indagato in questa ricerca sono le stesse questioni che si trovano in Italia e che affronta la nostra comunità ed è solo di un'attualità estrema, nel senso che, come lei la definita, la nominazione, cioè il nominarsi è comunque complicato, e lei ha notato poi che è complicato anche nella fascia d'età più giovane, no? Quindi. Allora, arriviamo alla prima domanda, in parte hai già risposto, ed era perché, la richiesta che volevamo fare era perché ha scelto questo range d'età così piccolo, cioè da 30 a 50 anni, e lei l'ha specificato perché voleva andare appunto da donne che non hanno vissuto il femminismo, diciamo, il primo femminismo, il primo lesbismo. No, non è il primo, però quello degli anni 70, quindi il femminismo degli anni 70 e il lesbismo degli anni 80, e però che approdano alla politica dei diritti, quindi questa fascia d'età. Allora, ha specificato, quindi questa è la risposta, c'è già, però allora la domanda che le rivolgiamo è questa. Ha notato differenze, oppure ha notato delle similitudini, delle somiglianze in questo gap d'età, cioè tra le trentenni e le cinquantenni, rispetto all'uso del linguaggio, e quindi come rispondono alle tematiche che tu hai indagato nel tuo libro, nella tua ricerca, e se le differenze che hai notato nelle risposte tra le trentenni e le cinquantenni, secondo te, sono legate al gap d'età, alla differenza d'età, cioè già possiamo parlare nello invento di una generazione quasi, da 30 a 50, e quindi se queste differenze sono legate all'età, oppure se sono invece legate agli ambienti, alle provenienze e alle esperienze fatte. E questa è una, sono concatenate, e si è notato in questa indagine che tu hai fatto l'uso, che uso del linguaggio. Quindi se secondo te c'è nella comunità o nelle diverse provenienze di queste donne un sedimentare di un linguaggio comune e quindi un capirsi attraverso questo linguaggio, un riscrivere da qualche parte, no? Il proprio nominarsi, no? Io mi nomino e quindi utilizzo un linguaggio che è proprio magari del mio gruppo di appartenenza, ma che mi fa capire e mi posso comprendere molto più facilmente. E quindi se questo linguaggio comune c'è da qualche parte, e o se invece notate delle differenze, cioè sostanziali, e se queste differenze sono ancora una volta legate a che cosa? Alle età diverse o agli ambienti? E quindi questa è la allora, bisogna pensare prima che ci sono tre percorsi. Per capire quali. Il fatto è vero che abbiamo due generazioni, una generazione in sociologia e 10 anni. 10 anni, quindi è due generazioni. Dunque, tre percorsi. Primo, un percorso che ho chiamato percorso progressivo. Allora, questi percorsi sono uguali per tutte le età, anche più giovane. Un percorso progressivo, quello è il più minotario, corrisponde alle lesbiche che non hanno vissuto mai una relazione con un uomo, anche un bacio al minimo, ma niente di più. E questo percorso è il più piccolo, e questo si spiega dall'eterosessuale obbligatorio più forte per le donne che le uomini. L'ho visto perché dopo ho fatto una ricerca comparativa tra traiettorie gay e lesbica. E ho visto che per le gay, quando si dicono gay, non vivono storie con donne, non hanno bisogno di vivere una storia con una donna, allora che per le lesbiche il percorso è più difficile. Dunque, in questo percorso progressivo, e questo si mantiene anche per le lesbiche più giovani. E poi vediamo le differenze più tratta dalle classi sociali, infatti. Poi c'è un altro percorso che ho chiamato percorso alternativo. Questo vuol dire che all'inizio del percorso bisogna, per confermare il lesbismo, il desiderio lesbiche, bisogna avere le lesbiche che vivono relazioni sessuali con uomini. Anche questo è un rivelatore di quello che Sedgwick ha chiamato il privilegio epistemologico dell'eterosessualità. Vuol dire che quando le persone, e l'ho visto nelle mie interviste, le persone eterosessuali, quando sentono il loro desiderio eterosessuale, che mi fa partito del regime comune, no? Non hanno bisogno di andare con una donna per verificare il loro desiderio. Allora che per le lesbiche fanno questo cammino di confrontare il desiderio eterosessuale per confermare il loro desiderio lesbico. Poi c'è un altro percorso, che questo è dominante, è il percorso che ho chiamato progressivo. Questo percorso veramente è molto molto dominante anche per le giovani. E questo percorso significa dunque il traiettorio dell'esbismo, che è più lungo, vuol dire che tra 17 anni a 30 anni, vuol dire che ci sono molti anni dove si vive anche relazione con uomini coniugali, si dice? No, coniugale. Relazione coniugale, di matrimonio. Di matrimonio. Possono vivere anche in questo tempo relazione con le donne, ma non trasforma la categoria. E in questo percorso, che è più dominante, il passaggio alla categoria lesbica si fa quando una lesbica rincontra una donna che si chiama come lesbica, e che si definisce. Certo. E questo è molto importante perché veramente c'è un passaggio spesso alle 30 anni, 28, 29, 30 anni, dove si passa questo passaggio. Bon. Per la prima domanda. Per la seconda, le differenze sono tra le età, ma le classi sociali. La prima ricerca che ho fatto per dirsi lesbica era un corpus di classe media, dunque non ho visto molto differenza, infatti. Ma la seconda ricerca ho fatto un'intervista con lesbiche di classi sociali molto differenti, dei luoghi di vita anche differenti, perché per la prima era Parigi e Tolosa, la seconda da tutta la Francia, paese, città, eccetera, comune rurale, campagna, eccetera. E ho visto molte differenze e in contesto dell'uguaglianza, tra le classi sociali. Infatti nelle classi medie oggi, le classi che hanno portato nella via il movimento per il matrimonio in Francia, che hanno sostenuto l'apertura del matrimonio per le persone del gay o lesbiche. Ma le classi sociali superiori, soprattutto di capitale economico forte e di adesione cattoliche, in queste classi sociali per lesbiche era molto difficile, è possibile di pensare quando le vediamo nella via, no? Dunque per lei dirsi lesbica è impossibile, si vive nel silenzio, o allora lei sfugge dalla loro famiglia e vuol dire che perdono in potere economico anche. E nelle classi più popolari è ancora molto difficile, infatti in queste classi la forza dell'ordine sessuale, dell'ordine del genere impone un silenzio obbligatorio, questo ha ci vediamo conseguenza anche sulla sessualità, sull'affettivo di queste persone. Ma per le classi popolari infatti credo che sono più liberate che le classi sociali superiori, perché non hanno a preservare un capitolo economico. E dunque lei, allora ci sono strategie differenti. Per quali che sono delle adesioni musulmane o di tradizione, che sono francesi ma che hanno eu des migrations, origine di migrazione, seconda generazione. Infatti lei vivono due vite, una vita nel loro gruppo, nella loro città, piccola città, e un'altra vita, la vita lesbica. È incredibile la storia che mi hanno raccontato, veramente una prova di libertà. E per le altre, alcune sfuggono dalla loro famiglia e vivono un lesbico affermativo, non forzatamente politico, ma affermativo, e alcune hanno anche métier. Dei lavori professionalmente qualificati, sì, dire. Del bâtiment par exemple, dei métiers dans le bâtiment, edilizia. Oui, dans le bâtiment, dunque sono operaie, sì, e lavoro con ragazzi eccetera. Poi per il language categoria, allora questo cambia. Una categoria che non si usa veramente oggi è la categoria omosessuale, perché questa categoria fa riferimento al discorso medicale del XIX secolo. Dunque è una categoria che si usa davanti alle istituzioni medicali, scuola, ma non per riconoscerti, non veramente. Quindi tu stai dicendo la categoria omosessuale, tu dire nominarsi omosessuale vuol dire questo, ok. Sì. La seconda è applicata dalle istituzioni come omosessuali o solo loro che si Loro non lo usa molto, perché questa categoria, anche per, ci sono tanti che non conosceva la teorica o la storia del medicale del XIX secolo di categorie, ma c'è qualcosa che questa categoria fa pensare un discorso medicale, un discorso, dunque non si usa tanto, si usa per parlare a un medico, si può usare, ma non è una categoria per sé. La seconda categoria per sé, lesbica, si usa per le generazioni di 40-50 anni. Allora, per lei era prima una categoria politica, adesso non è tanto una categoria politica. Per le giovani le categorie politiche sono, in italiano non esistono, credo, Gwyn, Gwyn che di fatto era un insulto, e hanno ripreso l'insulta per affermare Gwyn, è l'equivalente, ma non c'è. O allora per le più giovani c'è queer o bisessuale. Allora, bisessuale si usa all'inizio del percorso, da 20 a 30 anni. Infatti vuol dire molte cose. La prima vuol dire marca una volontà di non si riconoscere in una categoria fissa. Vuol dire un po'. Ma infatti lei non, per la più parte, per la maggior parte non vivono dei rapporti con uomini, ma si dicono che c'è una parte che si può, la ripolete non si può, la come possibilità. Ecco, per qualcuno la categoria bisessuale è ancora una categoria politica come queer, vuol dire io non voglio mi etichetta. Sì, ecco. La differenza dunque è questo: lesbica, queer, gay, bisessuale. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Ecco la ragione di una donna nella tua vita. Il tuo profilo dita leggere e le favole son vere, su di te occhi di fuoco e il tuo corpo non è un gioco. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Cerchi la ragione di una donna nella tua vita. Diverso il suo amore, la la la respira piano, il suo profumo non è strano, la la la gridalo pure. Nessuno sa ascoltare, questa è la ragione di una donna nella tua vita, ecco la ragione. nella tua vita. Ma che storie erano quelle, le sue mani sono belle, vola adesso la tua mente della strada, non si pente. Brucia in lei tutti i tuoi stracci, non lasciare che si schiacci. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Un aspetto che io ho trovato molto interessante nel tuo libro è un discorso che lo attraversa tutto nella verità e che riguarda il ragionamento rispetto al genere, cioè a come in sostanza il lesbismo sposta, cambia o si stacca dal genere tradizionalmente inteso come femminile. Del resto, insomma, partendo tutta la riflessione di Wittig e andando a indagare nei vari settori, evidentemente poi ne riporti. Così per chi non ha letto il libro, insomma, troviamo spesso, per esempio, in un capitolo, in un paragrafo che si intitola "A quanto pare ho perso il mio lato femminile", che è un'affermazione, insomma, di una delle intervistate, Natasha scrive: "La maggior parte delle lesbiche è stata alle prese con la questione del genere. Il dirsi lesbica, ci sono molte testimonianze mostrano quanto il dirsi lesbica abbia comportato prendere le distanze da una certa femminilità sociale e ripensare individualmente la rappresentazione di genere. Per esempio, cioè, la ricostruzione pensata della categoria lesbica può manifestarsi nel rifiuto della femminilità imposta, tradizionalmente vissuta come eterosessuale, oppure il rifiuto, salto da una riga all'altra, insomma, il rifiuto della categoria binaria del genere e si traduce con la critica del genere e dell'eterosessualità". Qui, diciamo, è proprio la parte in cui ne parli in maniera più a lungo, insomma, però anche attraversando altre tematiche torna sempre questo discorso sul genere. Porto solo un esempio per non parlare troppo lunga, è quando Natasha parla della sessualità. Scrive: "Per quanto riguarda le pratiche sessuali, le lesbiche rappresentano un genere in movimento. Possiamo constatare come le lesbiche propongano una diversificazione dei ruoli, delle posizioni, se non un'inversione, addirittura una dissoluzione del riferimento eterosessuale nel genere". Ecco, volevo che tu ci parlassi un po' di questo, che mi sembra sia uno dei cuori, insomma, della tua ricerca. Hai ragione. Si vede quello che ho chiamato un processo di deseterosessualizzazione. Dunque, vuol dire che il fatto di venire lesbiche si fa come un cammino di mida distanza dell'eterosessualità. Vuol dire che per molte interviste hanno detto che per lei quello che era molto difficile è l'assignazione alla categoria donna. Vuol dire qua, la categoria donna vuol dire l'assignazione alle norme femminili che lei vivono come un'assignazione di inferiorità. E questo è presente, allora, molto per le 30-50, ma si presenta in maniera differente per le più giovani. Per le più giovani c'è un codice culturale dove per lei l'emancipazione del genere si trova nella riappropriazione dei codici femminili. Codice femminile, senza dire donna. Allora che per la generazione 30-50 e ancora più alta, l'emancipazione si trova nel rifiuto delle bicategorizzazioni del genere tra la riappropriazione dei codici maschili o allora nel modello dell'androgenia. Ma prima di parlare di questo modello, mi sembra molto importante di vedere che anche per le lesbiche non impegnata, il momento di dirsi lesbica si accompagna di questo movimento di mise a distanza del genere, di categorizzazione e genere femminile come assegnazione. Allora, un modello che è molto predominante è questo dell'androginia. Vuol dire che per lei essere lesbica vuol dire avere del maschile e del femminile, quello è un po' un pensiero della differenza del sesso, e l'altro modello vuol dire non essere né maschile né femminile. No. È un modello che si pensa come qualcosa di un po' una dissoluzione del genere quando non si vede la bicategorizzazione. Il secondo modo è un modo più critica, coscienza delle categorizzazioni, più politiche anche, è il modello Butch-Femme. Questo modello vuol dire che Butch non vuol dire essere un ragazzo, non vuol dire avere la volontà di divenire un ragazzo, no. Vuol dire anche un processo di misadistenza del maschile, della bicategorizzazione, ma con una riappropriazione dei codici maschili. Ma non eterosessuali, perché l'indirizzo sono le lesbiche, non l'eterosessualità. Anche per la categoria femme, femme non vuol dire donna. Veramente questo modello è un modello un po' vitigiano, perché vuol dire non è una replica eterosessuale, e infatti è un modello di visibilità del lesbismo, ma un modello di visibilità che confronta la norma eterosessuale per una cultura lesbica. Io ho fatto alla fine del libro un glossario dove c'è tutte le definizioni, e ho definito? Sì. Butch Femme come veramente un genere lesbico. Cioè due categorie lesbiche, no? Sì, androginia, Butch Femme. Ma ci sono ancora tanti, ma le più dominanti sono questi, i modelli di referenza, no? Ma non c'è un modello a donna. Eh sì, e allora quindi avendo introdotto il modello Giuditta, cioè il modello Butch-Femme, che è caro, diciamo, nelle culture, io credo che nella cultura europea sia sì. Anche in Italia, quindi poi americano, come si chiama, non mi viene, la Nessol ne fa proprio una tipologia ben precisa e lo racconta poi quando nei campus americani degli anni 50 addirittura la coppia Butch-Femme faceva veramente la rivoluzione, no? All'interno appunto di una tipologia. Allora veniamo proprio ai ruoli identificativi, no? Perché per quello che tu hai detto adesso, hai parlato di due tipologie identificative per le lesbiche, che sono l'androgina, quindi quella che racchiude in sé sia, diciamo, il maschile che il femminile, l'indefinito, oppure la ruolizzazione Butch-Femme, molto più identificativa, dove però sia la Butch che la Femme prendono le distanze, hai detto, no? Dalla codificazione eterosessuale. E allora, andando proprio da questo modello identificativo, quello Butch-Femme, è possibile un cambiamento, un percorso che ulteriormente porta a un cambiamento? E qual è questa possibilità? A noi è da pensare perché nella ruolizzazione lesbica non c'è una definizione statica, no? È il divenire, non solo, ma poi per quello che tu dici nella ricerca, rispetto alle domande che fai e ai presupposti, quello dello script, per esempio, sessuale, o del copione, no? Sessuale, questo copione sessuale attraverso queste prove diverse, perché l'essere, le butch sono tantissime, di tantissimi tipi. Ma tutto si dispera butch. Ma tutte non si dice butch. Sì, non tutte si chiamano butch, naturalmente. Così come le femme, non tutte si chiamano femme, la stessa cosa, no? È possibile quindi poi riscrivere questo copione, perché il problema, o comunque la grande questione, la grande rivoluzionarietà, mi verrebbe da dire, delle lesbiche, è proprio quella di mettere in discussione quel copione, molto più di quanto, secondo me, fanno i gay. No? Perché appunto la divisione sessuale mondiale pone le donne in una certa posizione, no? E quindi anche le lesbiche. Allora, è possibile? E come l'hai individuato? E poi un'altra domandina lì sotto è perché hai scelto solo questa categorizzazione, o perlomeno non hai scelto solo questa, ma hai portato la tua attenzione maggiore su questo tipo di categorizzazione identificativa, la cucina. Allora, prima volevo precisare qualcosa, che per queste qualche lesbiche e anche le più anziane, la differenza di età la si vede, per il modello degli anni 70 era il lesbismo, vuol dire essere una donna più che una donna una super donna. E veramente questo è un cambiato di generazione, perché per le generazioni 30-50 il lesbico non definisce quella donna. Al contrario, volevo pensare come sfuggire di questa categoria. Credo che è veramente una differenza, perché negli anni 70 c'era un pensiero che qualcuna definisce come essenzialista, ma credo che il contesto politico è differente. Negli anni 70 le lesbiche avevano bisogno di essere visibili come lesbiche, ma anche di fare riconoscere la categoria donna, e credevo che veramente è una differenza fondamentale tra le generazioni. Uh-huh. E poi abbiamo avuto due tendenze politiche, una tendenza dell'eguaglianza, più una violenza eterosessuale, l'ho visto anche negli intervisti, molte donne eterosessuali, infatti lei voleva l'eguaglianza. Allora che le lesbiche volevano la dissoluzione del genere. Questo negli anni 70, dici tu? No, ora, dopo. Cioè nelle interviste che lei ha fatto al campione di controllo dice che gli eterosessuali vogliono la parità con gli uomini, sì. Mentre le lesbiche vogliono dissolvere il genere. Sì. Okay. E mi sembra importante, perché nel pensiero degli anni 70 il pensiero fondamentale non era la dissoluzione, ma al contrario mettere la differenza dei sessi come forte, come spazio forte di struttura politica. E poi c'è un altro cambiato negli anni 2000, è il pensiero queer, che dica che la subversione non di sfuggire del genere, ma al contrario, all'interno del sistema di bicategorizzazione, fare molte, molte proposte. Dunque c'è una posizione un po' subversiva, di sfuggire, un'altra più trasgressiva, che fare all'interno delle bicategorizzazioni del multiplo, come si dice? Multiplo. E il fatto, tu hai parlato dei gay, mi sembra che è molto differente anche, perché per molti gay non rifiutano la bicategorizzazione, per qualche hanno come volontà di rafforzare la verità per evitare lo stigma. Non so, ma è veramente forte nella comunità gay il paradigma della folle, come un dito, la folle, la chicca, quello che la gente, la pazza è molto in Francia è molto stigmatizzata. Non piace la chicca anche qui, eh? E mi sembra che anche questo si deve pensare con i rapporti uomini-uomini nella società, i rapporti di dominazione e di potere economico. perché per le lesbiche è più importante di sfuggire dalla categoria donna che una categoria di dominanza, allora che per i gay rafforzare la categoria della virilità permette di restare nella categoria uomo e di anche mantenere i benefici dell'eterosessualità. Allora, dunque, perché sono, mi sono fermata alle categorie di sesso? E per questo punto, perché io sapevo che queste categorie, questo modello era minotato nelle lesbiche, ma era importante di vedere come lei vedono queste categorie per capire anche le norme che lei aveva interiorizzato. Ecco. E per questo e anche perché per me queste categorie che hanno veramente una storia dagli anni 50, ma anche negli anni 40 questi termini avevano come origine gli anni 40, era per me un potere di subversione. E il fatto sono codici culturali, politiche in cui mi riconosce, mi riconosco. Ecco. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, non so che lei, non ho le mani, le sue, pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Allora, io appunto iniziamo a parlare della coppia lesbica, non ancora diciamo dell'istituzionalizzazione, ma parliamo di qualcosa che io ho trovato molto interessante nel tuo saggio, perché l'ho trovato molto rispondente a quello, alla mia esperienza, a quello che ho visto nell'esperienza delle altre e anche a tante discussioni che abbiamo fatto tra lesbiche, nelle associazioni, nei gruppi, eccetera. E nel tuo saggio ho trovato un nome scientifico a delle pratiche di vita che io ho visto, che abbiamo visto tante volte. Tu infatti parli per le lesbiche di monogamia seriale, e cioè del fatto che le lesbiche si fidanzano, insomma hanno una, diciamo, una relazione monogamia esclusiva, basata sulla fedeltà sessuale, come se fosse eterna, e poi però si lasciano e quella dopo la ricostruiscono uguale a quella precedente. Questa credo si possa utilizzare la monogamia seriale, e la trovo estremamente rispondente. Aggiungo che da giovani durano 2 anni, quando si diventa più grande magari durano 10, però l'altra cosa che io trovo estremamente, io, neanche solo io perché so anche di averne letto, oltre che discusso, è quello che tu chiami multipartenariato affettivo, cioè il fatto che una lesbica nel corso della propria vita costruisce relazioni molto forti, per esempio con le proprie ex, che continuano a essere sue partner non più sessuali ma affettive, punti di riferimento, quella che è stata chiamata la sua famiglia o in tanti altri modi, e che tu appunto sintetizzi con questa espressione di multipartenariato affettivo. Insomma, a me è sembrata molto rispondente insomma alla nostra realtà questa tua categorizzazione, quindi volevo che ne parlassi. Era molto interessante, è vero, perché prima ho detto che quando ho fatto la comparazione donne eterosessuali e lesbiche, nelle storie eterosessuali non si fa questo modello, perché? E questo è significativo della divisione dei sessi, dei sessi, dei orologi, dei sessi. Perché per un uomo quando si fa una coppia non è possibile di pensare che la sua moglie, non so come si chiama, la sua moglie, si è sposata, può avere una relazione di complicità, di solidarietà con un altro uomo che era un amante, non un amante, un amante. Sì, e questo mi sembra molto interessante perché è quello che ho chiamato di partenariato affettivo, ho potuto pensare perché era anche lesbica, perché veramente questo è un punto di vita situato, che si chiama, perché non si dica, non si parla, le lesbiche che ho intervistato non parlano di questo modello, ma lo vivono tutte, ma... E ricordo di molte di cena, di incontro ancora informale, ma si parla sempre di questa, perché c'è sempre un problema, perché la scorsa si sembra fare una concorrenza con la ex, eccetera. E infatti anch'io l'ho visto, lo vivo anche sempre. E dunque mi sono detto, ma come si può parlare di queste relazioni? E ho molto pensato come fare, perché non è la sessualità non è questo che rappresenta la relazione al momento, ma è una relazione singola, perché non è l'amicizia, non è l'amore, innamorato, è finito questo, ma c'è un qualcosa che uno spazio differente di effettivamente di solidarietà, di un affettivo singolare. E non c'è infatti parole per descrivere questo. Questo vuol dire, mi sembra, relazione della comunità, vuol dire relazione che definisce la cultura lesbica, questo sono relazioni un po' specifiche. Allora, io farei un'ultima domanda, perché come abbiamo detto prima, questo libro è pubblicato nel 2010, quindi quando in Francia sono arrivati i PAS, cioè sull'Italia ragazzi sull'Italia stendiamo il velo pietoso, chiudiamo eccetera, lasciamo perdere. Però lì adesso hanno anche il matrimonio. Ora, se volete il mio giudizio personale, io sono contraria però alla istituzionalizzazione dell'amore, però questo è un altro, è il mio pensiero, contraria. Pax, matrimonio e normalizzazione. Ecco, questo è un po' quello che personalmente ritengo sia il mettere dei limiti insomma all'amore. Ma detto questo, però è una realtà ed è anche una richiesta che spesso i movimenti fanno, e soprattutto, come ha detto benissimo Natasha, lo fanno già da tempo, dagli anni 2000, dagli anni 90 agli anni 2000. Allora, per questo vorrei leggere un pezzettino piccolissimo, però del pensiero di Daniel Charest, che riporta Natasha nelle note, proprio a proposito di questo elemento, cioè la tendenza, il capitolino si intitola La tendenza libertaria e rivoluzionaria, il PAS è una normalizzazione della coppia da parte dello Stato, questo è il capoverso, E appunto Natasha riporta uno studio che poi ha fatto invece la Charest, e che è questo, vi leggo: nei paesi in cui si è sviluppato quindi il pensiero su Paz, questo movimento ha elaborato strategie che sono proprie a partire da due obiettivi principali: il riconoscimento dell'omosessualità attraverso la coppia, l'integrazione sociale percepita come l'accesso all'uguaglianza dei diritti con le coppie sposate eterosessuali. Riconoscimento, coppia, integrazione e uguaglianza, queste sono le parole chiave di una visione il cui obiettivo finale è il matrimonio e l'affiliazione, in poche parole, l'adesione al concetto di famiglia. Ora, il movimento delle donne, ma anche il movimento lesbico, in una componente, quello che viene definito il movimento lesbico radicale, ha combattuto e combatte ancora proprio con il concetto di famiglia. Perché se poi andiamo a vedere, io lo dico sempre, l'etimologia della parola famiglia, che deriva dal latino, da famulus, che è il luogo degli schiavi. Quindi non è nato famiglia, perché era la gens la famiglia, in latino. Quindi proprio famiglia è proprio un porcaio. Allora, detto questo almeno è il mio concetto. Poi detto questo, poi, dopodiché dobbiamo stare anche a quello che accade, cioè nel senso che poi è chiaro che c'è una rivendicazione dei diritti, no? Quindi e vengo a terminare quello che dice Charest. Ora, mentre questo movimento che possiamo chiamare integrazionista ha adottato un'analisi mirata ad una strategia che accetta che l'ottenimento dei diritti sia sottomesso alla costituzione di una coppia legalizzata ricalcata sul matrimonio eterosessuale, questo movimento si trova in realtà a rivendicare privilegi esclusivamente associati al matrimonio e a garantire e a rinforzare un sistema, l'eterosocialità, che ha obiettivi profondamente discriminanti, e questo a scapito delle donne e delle lesbiche. Io direi questo non ce lo dobbiamo scordare mai. Fatta questa premessa, la domanda è appunto su quando tu hai fatto la ricerca sul campo e quindi hai lavorato sui PAZ, il pensiero nelle interviste che passava attraverso le donne intervistate era appunto poter accedere a dei diritti che erano quelli degli eterosessuali, quindi di una minoranza, di una maggioranza, di chi vi pare, ma insomma escludendo i diritti di cittadinanza delle persone singole. Allora, come mai c'è questo pensiero, se è l'orientamento maggioritario, diciamo, nel movimento? Era questa la domanda che volevo fare. Allora, adesso è un po' più complicato, certo. Perché adesso il pensiero dominante veramente... Scusate, poi tu hai detto anche che tra l'altro Pax, allora, ha avuto accesso pochissime lesbiche, sì. Nel senso che hanno scelto di non farlo, sì, peraltro. Sì. Ma sì, sì, è vero, ma hanno scelto di non farlo non per le ragioni di Daniel Charest, per le politicamente di Daniel. Giusto una precisione: Daniel Charest era una figura lesbica radicale molto importante, che ha lavorato tra il Quebec e la Francia, che ha molto lavorato con la rivista Amazon Dia Lesbienne d'aujourd'hui, e che è morta in 2000, fa due anni, no, in 2011. E c'è un numero adesso che è uscito in Francia, no, in effetti che parla il Quebec, scusa, anche in Francia, di Amazon e Lesbienne d'aujourd'hui, dedicato a Daniel Charest. In sei mesi va a uscire un altro numero di Nicole Clonmathieu, che è morta l'anno scorso. Ho scritto su Nicole Clonmathieu. Allora, adesso con i fax, è vero che i fax, infatti, abbiamo il percentage percentuali. 92% della coppia che fa il pazzo non è eterosessuale, e si esplica per le donne il fatto eterosessuale, perché è più facile separare quando hanno fatto un pazzo che un matrimonio. Dunque il pazzo non accorda gli stessi privilegi per i testamenti. È per questo che il matrimonio esiste, no? Per i testamenti e anche per la salute. Allora, i gay si passa al 6-7%, le lesbiche 3-2%. Ma infatti, e loro lo dicono nelle interviste, si non volevano all'epoca il pass, è veramente una minoranza che non volevo il pass per la ragione che declara Daniel Schaaf, ma è una tendenza. Le altre dicono che lei volevano il matrimonio perché il pass lo considerano come un diritto parziale, non universale. Dunque lei si considera come citoyenne? Cittadina, metà. Noi diciamo di serie B. Sì. Dunque è la generazione giovane ha molto sostenuto il matrimonio. Allora, chi ha portato il matrimonio sono soprattutto i gay. Le lesbiche non hanno portato, hanno sostenuto ma non avevano il potere. Adesso io vedo che le cose cambiano molto, perché io sguardo che ci sono anche lesbiche politiche che si sposano. Perché? Si sposano perché volevano proteggere le sue compagne, soprattutto quando sono anziane. E anche hanno paura molto, si vede molto, in Francia, delle prossime elezioni presidenziali e del fronte nazionale, della destra estrema, no? E anche della destra meno classica, non so se è classica, perché lei dichiara che quando lei arriva al potere toglie questa lega, legge delle lesbiche. E dunque si vede molto il fatto, e allora per le lesbiche giovani e altre fanno la festa per un matrimonio, le lesbiche più politiche lo fanno ma un po' nel silenzio. Ma il fatto è vero che mi sembra un po' l'altro punto che adesso in Francia c'è, parla della filiazione e dei diritti di riproduzione. E allora si vede una divisione, infatti per le lesbiche giovani, ma anche le femministe, volevano la PMA, la procreazione medicalmente assistita. Ma la divisione c'è per la GPA. Come gestazione per in affitto. Allora, questa GPA è sostenuta da gay, anche dei movimenti femministi, no, femministe non tanto, ma movimenti dei diritti LGBT, e i femministe non volevano perché lei consideravano che è un altro cambio dei corpi delle donne, lo comparativo alla prostituzione un po'. No. Allora, sulla la questione del... mi sembra che questo matrimonio è un po' complicato, adesso nel contesto politico, perché il fatto si sposare nel questo contesto, evidentemente non è una rivoluzione, ma è una forma di subversione all'interiore della famiglia eterosessuale, perché così le lesbiche reinventano il matrimonio. Sì, e infatti consolidano una famiglia perché io ho molto sentito gli argomenti sono: non voglio che la famiglia biologica hanno il privilegio di una casa comune, dei soldi, non so, eccetera. Dunque lo volevano anche per si separare dalla famiglia eterosessuale. Dunque è un po'... È controverso, mettiamola così. Sì, una consiglia. Sì. Allora, Natasha le abbiamo fatta parlare molto, sì. L'altra in una lingua non è la sua, forse gli possiamo fare anche un applauso. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Avete ascoltato